La versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori, 16:31 primi 51 secondi in diretta di Studio Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo la versione di Oscar @radio24.it, perché anche oggi torniamo alla nostra consuetudine di dedicare la trasmissione a ascoltatori che propongono temi, anzi è il bis, per così dire. Questo ascoltatore è, secondo me, meritoriamente recidivo, perché l'ascoltatore di oggi, così vi segnalo il tema per invitarvi a intervenire in trasmissione con le telefonate 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666, con l'ascoltatore di oggi abbiamo fatto una trasmissione ad aprile e l'abbiamo fatta sullo stesso tema su cui torniamo oggi per dovere informativo. Questo ascoltatore ci segnalò che l'obbligo annuale per legge introdotto della rendicontazione ministero per ministero, amministrazione per amministrazione, degli oneri amministrativi introdotti o cassati, no? Introdotti o eliminati, che ogni amministrazione è tenuto a fare per legge e che ha una scadenza il 31 di marzo, bene, al 31 di marzo praticamente era completamente elusa, cioè questo bilancio praticamente non c'era, e si dava appuntamento per la fine di maggio per l'aggiornamento di questo rendiconto annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Con lo stesso ascoltatore, che ovviamente un po' tignosamente e giustamente è rimasto sulla palla, attento alla palla, sul campo di gioco, torniamo oggi sulla questione per vedere che cosa è successo nel frattempo. E la domanda che io vi faccio, al di là delle opinioni su quello che sentirete adesso dal nostro ascoltatore, che commenterò anch'io, è questa: soprattutto se siete amministratori di comuni, ex province o regioni, sempre che siate in ascolto e abbiate voglia di intervenire, ma soprattutto a tutti gli altri che sono i cittadini appunto di comuni, ex province e regioni, la mia domanda è questa: se siete amministratori, anche se non siete, per così dire, obbligati come le amministrazioni centrali, lo fate voi un rendiconto annuale agli elettori e ai cittadini amministrati degli oneri amministrativi introdotti in aggiunta o eventualmente eliminati? Perché è un criterio, secondo me, di trasparenza e di efficienza abbastanza basilare, un rendiconto annuale obbligato per fare capire alla gente, primo, quante cose dite davvero di quello che avete fatto o non fatto, e secondo, per consentire di misurare nel tempo qual è l'andamento effettivo dell'attività amministrativa rispetto ai, tra virgolette, clienti, che sono coloro che pagano e sono coloro a cui dovrebbero andare poi i servizi, cioè i cittadini. Lo fate o non lo fate? Se lo fate, dite come; se non lo fate, dite perché. Non avete le risorse per farlo? Siete strozzati? Non credete che questo sia uno strumento essenziale? Se siete cittadini, la domanda che vi faccio è: voi andate sui siti della vostra amministrazione a controllare se esiste una rendicontazione di questo tipo? Se lo fate e non c'è, che cosa fate? Pensiate sia inutile, una perdita di tempo, inutile fare questa attività, che secondo me invece è uno dei fondamenti attraverso i quali possiamo forse sperare di cambiare qualche cosa dal basso? La delegate solo all'attività politica e dei partiti? Ma se siete cittadini la cui idea cambia nel tempo, di elezione in elezione, andando a votare, non andando a votare o cambiando voto, non sarebbe più giusto forse farla in proprio? Mi interessa anche, se invece siete aderenti politici, militanti, quadri politici, come la pensate su questo argomento qua? Perché siamo non indietro, siamo indietrissimo. Usiamo questo termine contenuto perché a me verrebbe da urlare, sapete che cosa urlerei, stato ladro di qua di là. Io vi dico solo questo, che nell'aggiornamento vedremo adesso quanto numeroso, quali ministeri si sono fatti vivi e che cosa dicono. Vi sottolineo solo su questo dato, sul quale torneremo in questa rendicontazione annuale: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sostiene di non aver introdotto nessun nuovo onere amministrativo né di averne eliminato o cassato alcuno. È una notizia che a leggerla nero su bianco a me fa, nella migliore delle ipotesi, crepare dalle risate, ma la verità è che mi indigna profondamente, perché credo che questa da sola valga a liquidare la credibilità di questo strumento, che pure è obbligatorio per legge ed è nazionale, perché se il MEF non ha introdotto alcun aggravio amministrativo né ne ha semplificato alcuno, allora io sono alto, biondo, viviamo in un paese vicino al circolo polare artico e qualunque altro paradosso secondo me risulta altrettanto credibile e giustificato, ma questa è la mia opinione. Allora, l'ascoltatore che fa da cane da guardia civile a nome di voi tutti si chiama Stefano Fontana, io lo ringrazio di essere di nuovo con noi questo pomeriggio. Buonasera Giannino, rieccoci. Rieccoci, è il caso di dire. Allora, riepiloghiamo come stavano le cose a marzo su questo obbligo di legge. Ma a marzo le cose stavano che il Dipartimento per la Funzione Pubblica si era detto incapace di adempiere, perché non aveva avuto informazioni da tutti i ministeri e quindi si era autoprorogato di 60 giorni il termine per poterci informare in merito agli oneri. E oggi ho letto il nuovo documento, come ha detto lei in maniera un po' speciosa, ma doverosa, non c'è niente di nuovo, questa è la sintesi di tutto, perché se si vedono le conclusioni dicono siamo tutto sommato soddisfatti perché rispetto al 2013 sono 6 ministeri che hanno dato un bilancio, e mentre prima erano 3, e basta. Si precisa che non sono intervenute, non sono arrivate informazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico, e questo mi consenta, è abbastanza folle che proprio il Ministero di riferimento, secondo me, di questa famosa crescita che dovrebbe esserci, non sia in grado di dire quali sono gli oneri che ha introdotto nei confronti delle imprese. E niente, lì si ferma tutto, è mezza facciata di conclusione. Quindi un documento scarno che serve solo così a dire abbiamo adempiuto male, ma abbiamo adempiuto. Allora, io aspetti, le risparmio la fatica perché ho il pezzo di carta in mano in questo momento del rendiconto finale, e quindi per essere precisi con chi ci ascolta facciamo il quadro preciso. Nel documento che potete adesso trovare sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica si legge che siamo appunto a 6 ministeri che hanno elaborato questo bilancio degli oneri amministrativi, ripeto, aggiunti o cassati, e i 6 ministeri sono il Ministero dell'Interno, della Giustizia, delle Politiche Agricole e poi il Ministero dell'Ambiente, del Lavoro e della Salute. Nel 2013 in tutto un solo ministero aveva adempiuto questo obbligo, quindi si dice ma siamo già a 6, che cosa volete? Poi c'è questa comunicazione che ha del comico, per cui 12 ministeri hanno dichiarato di non aver introdotto né eliminato oneri: il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Lo stesso hanno fatto 7 ministri senza portafoglio e dipartimenti della Presidenza del Consiglio, mentre non hanno dato proprio nessun tipo di risposta, nessuno, neanche quello che dice ma tanto il nostro bilancio è assolutamente neutro, riteniamo di non aver aggravato né migliorato come oneri amministrativi la vita dei cittadini e delle imprese, a non aver detto neanche questa formula, che peraltro io ritengo comica, sono il Ministero dello Sviluppo Economico, come ci diceva adesso Stefano Fontana, e udite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con quello che è successo pochi mesi fa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la decapitazione che è avvenuta alla struttura apicale presso la segreteria del Ministro, che ha significato anche le dimissioni del Ministro precedente e la nomina del nuovo Ministro Graziano Del Rio, la decapitazione cioè di una struttura che per 15 anni è stata padrone assoluta nel piano di realizzazione delle grandi opere, di tutto il sistema di allocazione da general contractor a grandi appalti e poi di revisione dei subappalti, con incardinamento nella centrale del general contractor di questa figura attraverso la quale invece che controllare si mettevano altri amici degli amici. Questa è la sintesi estrema di quello che è successo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Eppure il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il nuovo ministro Graziano Del Rio, che quindi dovrebbe essere molto interessato a far vedere la differenza della nuova gestione, non risponde minimamente a questo obbligo di legge. La cosa molto divertente che riguarda il Ministero dell'Economia e delle Finanze è una noticina che voi trovate a proposito del fatto che per dare credibilità, voglio dire, al bilancio zero del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché c'è una noticina sotto, cioè ripeto, il ministero a cui fa capo l'intera amministrazione tributaria italiana, l'intero apparato per cui con le circolari settimanali noi contribuenti dobbiamo imparare come si ottempera l'obbligo fiscale, non con la legge, non solo con i decreti legge, ma con le circolari. C'è una noticina scritta in corpo piccolissimo, la nota 14, che dice: si ricorda che ai sensi dell'articolo XY, comma XY, septies della legge del 2011, le disposizioni sul bilancio degli oneri, e cioè appunto l'identificazione di questa comunicazione annuale dovuta sugli oneri aggiuntivi o eliminati ai cittadini e alle imprese, continua a leggere la nota, dice: questa disposizione non si applica con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia, giochi pubblici, eccetera eccetera, cioè in buona sostanza non si applica a tutte le cose core, cioè a quelle fondamentali che fanno al MEF. E voi capite bene che a questo punto a me scappa l'incazzatura, perché cosa diavolo mettiamo un obbligo di rendicontazione annuale del percorso fatto nell'aggravamento, nella semplificazione degli oneri amministrativi, se poi diciamo che il MEF è esentato da tutto quello che riguarda le cose fondamentali che dal MEF ricadono, con il giusto obbligo di ottemperanza a milioni di cittadini e centinaia di migliaia di imprese italiane? Ecco, questa è la fotografia, mi rendo conto, lontana dalle cronache quotidiane, dal rientro di Astro Samantha Cristoforetti, dallo scandalo di Roma che è imperversa, dall'intervista a Panorama di De Luca, su cui tornerò più avanti, ma che però descrive il quadro di come, in buona sostanza, lo Stato ritiene di trattarci come cittadini, no, come sudditi, perché c'è una disposizione che, con disposizione di carattere secondario e non di legge, esenta in buona sostanza gli stessi soggetti che per legge dovrebbero essere tenuti a rispettarla, al loro rispetto, se non attraverso un rispetto poco più che formale, mezza cartella di spernacchiamento. Allora, Stefano Fontana, lei ci ricorda perché si fece venire questa voglia a marzo come cittadino? Ma a me era successo perché contestualmente poi io, come tanti imprenditori, avevo dovuto adempiere invece in gran fretta a tutte le richieste che venivano fatte, perché poi c'è un problema che qui non si evidenzia, ma perché è frutto di un'amministrazione fuori controllo e che è legato al fatto che poi nelle tutte le emanazioni locali, quelli che sono gli oneri che qui possono o non possono essere rilevati si moltiplicano, perché essendo l'amministrazione fuori controllo, ognuno poi nella singola provincia, nel singolo comune, fa meglio che può e tante volte, per non sbagliare, aggiunge degli oneri in maniera tale che intanto, per quanto riguarda la gestione, si è tenuto al coperto. Ma se mi permette, volevo dire una cosa che magari è esagerata, ma non credo, perché lei dice questo tema è lontano dalle cronache. È vero che è lontano dalle cronache, ma secondo me indirettamente è molto vicino, perché uno Stato che scrive queste cose è uno Stato incredibile nel senso più letterale del termine. Sì, cioè che agli occhi del cittadino non merita la fede pubblica, ecco, diciamoci le cose come stanno. Esattamente, esattamente, è questo il punto. E allora, secondo me, il MOSE, lo scandalo Expo, di vari problemi legati a questi grandi scandali, mafia capitale, così. Mafia capitale, eccetera, sono frutto di una pubblica amministrazione totalmente fuori controllo. Cioè, qui c'è scritto che lo Stato non sa amministrarsi, punto, non c'è scritto niente di diverso. Cose che, nelle quali poi il delinquente, che sia in giacca e cravatta o con il passamontagna, sa bene inserirsi tutto lì, e quindi chi vuole lavorare in un certo modo ha bisogno di essere tutelato e scopre che questo non è, punto. Allora, io continuo a dire, se siete sindaci di un piccolo comune e lo Stato vi taglia i trasferimenti, ma non sarebbero occasioni come queste, magari all'interno dell'ANCI o individualmente o con l'accordo tra alcune amministrazioni, di impugnare questa patente violazione di legge da parte dello Stato centrale? Perché non è che è solo mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, delle imprese, di tutti noi, ma è anche una elementare mancanza di rispetto verso tutti gli altri gradi sottostanti di amministrazione decentrata, i quali a loro volta dovrebbero poi adeguarsi a un codice di trasparenza, per carità. Però il problema è che se mai iniziamo a ragionare che sulle patenti violazioni di legge da parte dell'amministrazione dello Stato ci mettiamo tutti insieme, e dal punto di vista dell'ordinamento giuridico dobbiamo fare impugnative coerenti, mica dico di spaccare niente o spaccare la vetrina, ci mancherebbe altro, però qua siamo in presenza della reificazione di uno Stato i cui impegni non vengono mantenuti ma diventano derisione agli occhi di noi tutti che paghiamo le tasse. Un minuto di informazione stradale e poi torniamo. La versione di Oscar. Buon pomeriggio, eccoci tornati in diretta. Di nuovo buon pomeriggio, sono le 16:49 primi. Stiamo parlando della relazione complessiva, questa è la sua definizione ufficiale, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, riferita all'anno 2014. La trovate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. È un obbligo di legge per le amministrazioni centrali corrispondere con ognuno con una relazione a questo obbligo. In teoria il termine è il 31 marzo, nel 31 marzo ce n'erano 3 che lo avevano fatto, adesso siamo passati a 6, grande miracolo. Tutti gli altri o hanno detto che non hanno niente da comunicare, oppure si sono anche risparmiati di fare questa comunicazione e semplicemente non hanno risposto. Tenete presente che nell'obbligo di legge che predispone la struttura di questa relazione si dice, per esempio, anche che bisogna tenere in considerazione da parte di ciascuna amministrazione le osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali oltre che dai cittadini, cosa che rimarca ancora più gravemente il fatto, mi dispiace, che il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, non abbia deciso di non rispondere per niente, e idem dicasi per quello delle infrastrutture. Eppure così è. Lo dobbiamo alla segnalazione di un ascoltatore. Io, a dirvi la verità, una cosa simile non l'ho mai vista sui giornali italiani. Prima di tornare a fare un paio di domande al nostro Stefano Fontana, lasciate che io vi dica che cosa ho pensato stamattina leggendo su Panorama un'intervista che secondo me è molto bella dal punto di vista giornalistico, un'intervista fatta dal direttore di Panorama a De Luca, al presidente della Campania eletto dai cittadini. Sapete che c'è una vicenda che lo riguarda e aspetteremo di capire se viene sospeso prima di nominare il suo vice e la giunta oppure no. Si è capito che in realtà il governo glielo lascerà fare, e io ero interessato a due cose stamattina. Prima, a leggere bene l'atto reso dall'autorità anticorruzione, quindi da Cantone, su questo punto della legge Severino, e poi ho letto l'intervista su Panorama. Ho letto l'atto dell'autorità anticorruzione di Cantone e mi sono trovato a pensare che Cantone sembra uno cresciuto alla scuola dei gesuiti. Io vi invito tutti a leggerlo, la mia non è una critica. Se leggete il parere reso dall'autorità anticorruzione sul tema legge Severino va modificata, come dice De Luca, che sostiene che è incostituzionale, oppure no, voi leggete l'atto e potete trarre allo stesso modo due conclusioni opposte. Sì, bisogna modificarlo perché ha ragione De Luca. No, non bisogna modificarlo perché non ha ragione De Luca. E devo dire la verità, se a questo serve l'autorità anticorruzione, cioè inchinarsi di fronte a ciò che deciderà la politica e il governo, forse non era così fondamentale. Però questo lascia il tempo che trova. La cosa che invece mi ha colpito dell'intervista di De Luca oltre a giudizi sui quali sarei curioso di capire come la pensano gli elettori del PD e lo Stato Maggiore del PD, perché dice per esempio testualmente di Berlusconi ha avuto il grande merito di porre il tema della giustizia, il suo vero demerito è quello di non averlo risolto. Mi risulta che il PD non la pensi così su come Berlusconi ha affrontato la questione della giustizia. Oppure il giudizio che dà su Salvini, testualmente: non ho alcun particolare motivo di anzi la parola testuale è: non nutro alcuna particolare antipatia nei confronti di Salvini, c'è un punto sul quale bisogna dire le cose come stanno. Sull'immigrazione e rifugiati servono provvedimenti ispirati a rigore e non a pretese caritatevoli. E anche questo è una musica un po' diversa da quella pronunciata dal PD. Ma a un certo punto, tornando all'argomento di oggi, dice De Luca: troverò di sicuro in campagna, per De Luca ovviamente non ci sarà sospensione, si modifica la legge, eccetera, eccetera. Se fosse un candidato in queste condizioni del centrodestra, immagino che ci sarebbe la rivoluzione. Ma insomma, lui sostiene questo e dice: troverò di sicuro i conti falsi. Però l'argomento, e torniamo al nostro tema, è molto fondato. E io applaudo a quel punto a De Luca, perché dice: come fanno a non essere falsi se per esempio alcune ASL della Campania, tipo l'ASL Sud 3 di Napoli, non approva bilanci consuntivi dal 2010? Dal 2010! Voi capite che il bilancio della regione, essendo fatto l'85% di spesa sanitaria, in Campania ci sono ASL che non hanno i bilanci consuntivi del 2010 approvati. Allora, perché faccio questo esempio? Perché senza la rendicontazione annuale degli oneri aggiuntivi eliminati ai cittadini, una delle conseguenze è che è più facile nascondere quello che si fa, anche dal punto di vista della rendicontazione contabile. Questo è il motivo per cui nell'amministrazione capitolina, oltre a quello che sta succedendo, con i nuovi criteri omologati di bilancio che entrano in vigore quest'anno, sono emersi la bellezza di 800 milioni di euro, 800 milioni di euro di perdite non dichiarate. Ovviamente non lo avete letto sui giornali perché vanno automaticamente alla gestione commissariale, però voi capite che non mi sembra una cifretta di quelle su cui l'informazione fa bene a sottovalutare. Allora, Stefano Fontana, che facciamo? Rimaniamo in attesa che qualcun altro lo mandi questo rapporto oppure ci rassegniamo? Io sono abbastanza rassegnato, ecco. Devo essere onesto. E soprattutto perché si parla di questo e spesso, come ho appena fatto, ci si fa una risata e si va avanti. Il problema che dico io è che poi appunto alla fine qui da noi c'è sempre chi la mattina si alza e va a lavorare e porta, esatto, i soldi anche per quelli che hanno fatto questa relazione e sono stati pagati per farla. E non ci rende conto, no? Perfetto, ve lo dico da adesso, domani ci occupiamo dei decreti delegati del Jobs Act che sono previsti per il Consiglio dei Ministri di oggi, perché c'è un mucchio di robe che interessano la vita di noi tutti, chi ha un lavoro e soprattutto chi non ce l'ha lo cerca. E spera, a domani, continuate con Radio 24.